Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti a Mebius, ciao Chiara. Ciao Federico, ben trovati a tutti. È raro che Mebius dedichi un'intera puntata a un solo argomento, ma questa volta ci voleva. Quando gli argomenti sono da approfondire in maniera evidente, sì, abbiamo il tempo fatto che questa abbiamo. Scelta. Titolo allora. Perché questa settimana è uscita questa notizia che in Gran Bretagna, insomma, l'Authority ha concesso il via libera alla modifica genetica di embrioni umani. Allora si è detto tanto, si è detto tutto, forse dal punto di vista scientifico e dal punto di vista etico. Però, come sempre, noi dobbiamo mettere alcuni puntini sulle i, fare un po' di buona informazione. Diciamo così. E poi l'argomento è tutt'altro che chiuso, continuerà per un bel po', bisogna capirci di più. E quindi partiamo. In questo breve ma intenso viaggio che facciamo sul tema, ve l'abbiamo annunciato nei titoli, partiremo dagli aspetti tecnico-scientifici. Però Chiara, prova magari brevemente a ricordare la notizia perché ovviamente è una notizia che ha occupato le pagine molto, dei quotidiani e il dibattito anche in rete. È successo questo, che l'autorità Human Fertilization and Embryology Authority, quindi l'autorità per la fertilizzazione e l'embriologia umana britannica, ha deciso di dare il via ad una ricerca sulla modifica genetica degli embrioni umani nei primi 7 giorni, quindi diciamo che questo è un dato che poi capiremo perché è importante. Che ha un suo rilievo enorme. Ovviamente l'obiettivo non è quello che si urla a caratteri cubitali del bambino, del creare bambini su misura, ecco. Ma anzi è capire lo sviluppo di alcune patologie appunto legate ai geni e anche capire perché gli embrioni molte volte, nella maggior parte dei casi, non si sviluppano, quali sono i meccanismi che entrano in gioco affinché appunto l'embrione muoia. E abbiamo appreso che è 13 su 100 che arrivano solo all'incirca, sì, questo è un dato che adulta. Colpisce certamente. Quindi sono veramente tanti. Le cose. Ecco, allora abbiamo pensato di prenderla da più punti di vista. Certamente dobbiamo fare un comunicazione corretta tecnico. Sulla parte tecnica. Poi entreremo più avanti nella puntata anche sulla parte ovviamente di etica e bioetica. Allora diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Carlo Alberto Redi. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Biologo dello sviluppo, è già stato nostro ospite all'Università di Pavia. Quindi... Da dove incominciamo? Allora, può dirci Redi intanto, perché sì, sono quelle immagini giuste da dare. Noi stiamo parlando di una ricerca che lavorerà su quali dimensioni? Insomma, i primi 7 giorni siamo ai millimetri? I primi 7 giorni, in realtà qui il permesso è stato accordato sino ai primi 14 giorni. Nello sviluppo dell'embrione umano, i primi 14 giorni sono quelli prima dell'impianto sulla mucosa uterina della madre. Diciamo che è un insieme di cellule sino a un massimo di circa 200 che scendono lungo le tube per impiantarsi. Quindi stiamo parlando di un numero di cellule che varia da una cellula a circa 200-250. Okay. Questo è il punto fondamentale. E avete fatto bene a ricordare che su 100 concepimenti, 100 fecondazioni, è un numero ancora più basso del 13, quello del bambino in braccio. Nelle popolazioni occidentali siamo sotto al 10% ampiamente, quindi in natura più del 90% delle fecondazioni vanno perse prima e post impianto, subito nel momento post impianto. Ecco, e le motivazioni per cui appunto non si arriva allo sviluppo sono ovviamente strettamente legate alla divisione cellulare, alla genetica ovviamente. Non vedo dubbio, stiamo cercando di capirlo, no? Come esattamente avviene. Le cause sono molteplici, indubbiamente, ragionevolmente ci saranno quelle immunologiche, ci saranno tantissime cause. Ne conosciamo veramente poche e il permesso che è stato accordato in questo caso al Crick Institute nella persona di Katie Niakan è proprio quello di andare a vedere alcuni di questi geni, facendo un lavoro di eliminare selettivamente uno alla volta per capire quale è l'insieme dei geni rilevanti. Avverrebbe? E poi è doveroso forse ricordare che gli embrioni che verranno in qualche modo studiati dalla ricercatrice e dal Francis Crick Institute sono stati donati, diciamo, alla scienza coppie che hanno appunto utilizzato la... Va da sottolineare un aspetto molto di rilievo per il dato che bisogna fornire per la discussione bioetica, cioè queste sono coppie che hanno avuto il bambino e sono andate a casa col bambino, ma hanno deciso di dire che cosa fare dei loro ovuli fecondati, non li hanno abbandonati. Hanno avuto ovviamente tramite la fecondazione assistita. Non v'è dubbio, però anziché andare a casa e lasciarli abbandonati, hanno dichiarato desideriamo che partecipino a dei progetti di ricerca. E questo è un punto importante per la futura discussione. Ecco, e in questo Italia questa cosa non è possibile, questo è anche un altro dettaglio da specificare. Certamente no. È importante sottolineare gli aspetti tecnici, credo che sia utile per chi ci ascolta per sviluppare il dibattito. Come si fa? È a partire dal 1987 che noi disponiamo di fatto di questa tecnica con questo acronimo così strano, CRISPR-Cas9. Sì. È una delle tecniche sviluppate a partire da quella CRISPR del 1987, che è una tecnica che è stata trovata prima da giapponesi e poi studiando Escherichia coli, cioè quindi studiando un organismo unicellulare. Cioè questo è un sistema che queste cellule, Escherichia coli è fatta di una cellula, usa per eliminare le infezioni dei virus che la attaccano per cibarsene. Questo è molto importante. Infatti la sigla significa Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats, CRISP. Poi CAS è venuto fuori dopo, CRISP Associated. E 9 è un'ennesima rifinitura di questa tecnica, che è fondamentalmente una guida di un acido nucleico, che è l'RNA, sino a trovare la porzione del DNA, del gene di interesse, dove l'endonucleasi, una forbice che è attaccata, taglia il pezzo di DNA, dopodiché si ricuce con una parte di interesse proprio. Si capisce subito che qualunque cellula animale, vegetale, somatica, germinale, può essere trattata con la tecnica CRISPR-Cas9, che è una tecnica, diciamo, rispetto agli aspetti di ingegneria genetica, semplice e non costosa. Il problema ora sarà vedere dove il dibattito, una volta sapute questi dati, ci porterà a dire è legittimo fare una cosa, non è legittimo farne un'altra. Allora, per semplificare leggermente quello che lei ha appena spiegato in maniera davvero dettagliata e ampia, allora, praticamente è possibile in qualche modo selezionare una porzioncina di DNA molto precisa, e questa è la caratteristica di questa tecnica, per cui nel momento in cui si andrà ad utilizzare negli embrioni, che appunto sono costituiti da poche cellule, sarà possibile spegnere, accendere, attivare e disattivare in qualche modo i geni per capire quale quale gene si attiva, diciamo, per una determinata malattia o per lo sviluppo. Sì, però è necessario fare una precisazione. Sì. Questa tecnica ad oggi è molto imprecisa. Questo è un aspetto rilevantissimo, perché non riusciamo ancora ad ottenere in maniera selettiva solo e soltanto l'incontro di quella sequenza di RNA col DNA nel punto che desideriamo. Si attivano anche altri tagli qui e là. Ora è chiaro che se io lo faccio su una cellula vegetale, mi è andata storta, lo rifaccio con un'altra cellula vegetale finché ottengo il prodotto che mi interessa. Certo. Lo faccio su una tecnica con una cellula somatica, ok, lo rifaccio e così via. Su una cellula germinale, su un embrione, la cosa diventa più, diciamo, da discutersi. Cioè, in che termini vogliamo arrivare ad avere questa precisione? Certamente dovremmo provare, perché se non proviamo non ci arriveremo mai. Allora, quindi bisogna discutere il fine. Il fine è quello di eliminare determinate patologie. Ma però, attenzione, le patologie monogeniche, come nel caso del tentativo fatto dai colleghi cinesi sulla talassemia, cioè malattie che coinvolgono pochi geni, avrà uno spiraglio vicino nel tempo, ma le malattie in generale sono multigeniche è un sogno ad oggi. Certo, certo, bisogna mettersi a far ricerca per arrivarci. Bisogna cominciare. Potremmo eliminare delle patologie terribili. Qui però si aprirebbe, allora, perché la ricerca fosse attendibile, si aprirebbe un problema appunto di quantità, e cioè bisognerebbe considerare gli embrioni come le foglie che si possono liberamente prendere in un albero quante ne vogliamo. Ma diciamo che bisognerebbe considerare, da un lato, certamente lo statuto dell'embrione, che non troverà mai una omogenea visione, ovviamente, perché le visioni sono molte, ma dall'altro ricordarci che forse i problemi da discutere oggi sono altri. Il brevetto lo diamo a Feng o non lo diamo? Il Nobel lo diamo a Doudna, a Charpentier, a Feng anche lui? Cioè, quali sono gli aspetti, le battaglie legali? Non dimentichiamoci gli errori fatti con gli OGM. Sì, perché le dice, la conoscenza che deriva da questo tipo di ricerca potrebbe finire anche in altre parti, insomma. Umano diventa quasi un falso problema, perché per un indù, per un buddista, per un cinese, queste cellule, questi 200 cellule non sono un nuovo individuo, ma addirittura, non dimentichiamoci, in ambito Islam o in ambito ebraico non costituiscono un problema, per i valdesi non è neanche un problema. Quindi attenzione a non focalizzarci solo su un dibattito, certo, solo infatti, sui nostri riferimenti. Certo, diciamo che il dibattito non è solo appunto etico, ma è anche nel merito, esatto, della genetica, esatto, perché appunto la tecnica è ancora, diciamo, imprecisa, e qui, certo, bisogna lavorare. Okay. Certo, poi il dibattito etico è importantissimo, ma certo, però deve essere basato sui dati. E i dati della realtà dicono che quando anche quattro paesi cattolici dicano no, sì, è importante se decidiamo che per noi è così. Ma attenzione, in Inghilterra il comitato di bioetica non ha ancora detto di sì. L'autorità ti ha detto sì, è ragionevole che ora il comitato di bioetica dica di sì. Però questo è stato un bel esempio anche per chi dibatte di bioetica. Non hanno deciso a caso, lì ci sono filosofi, giuristi, economisti, biologi, medici, e hanno informato i cittadini. Ma certo. L'hanno fatto dopo aver saputo che la maggioranza dei cittadini è d'accordo. Era d'accordo. C'era stato un referendum con le malattie mitocondriali. Grazie mille, Redi. A voi, utilissimo come sempre. Buona serata. Continuiamo in questa puntata il percorso su questo tema assolutamente importante, che coinvolge opinioni sia scientifiche che ovviamente culturali, emotive, e che abbiamo adesso, Chiara? Adesso abbiamo il professor Bruno Dalla Piccola, che è direttore scientifico dell'ospedale Bambin Gesù di Roma e anche membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Quindi benvenuto, professore. Buonasera a tutti voi. Allora, qui la faccenda, insomma, è abbastanza seria, nel senso che anche all'interno della comunità scientifica ovviamente i pareri sono diversi. Subito ci si interroga sul significato che si attribuisce alla parola embrione, oltre che ovviamente alla tecnica che poi viene utilizzata su questo. Ma dunque, è un dibattito sul quale non se ne verrà mai fuori, perché si tratta di capire se noi consideriamo l'embrione un qualcosa o un qualcuno, o un qualcuno. Nel senso che c'è un gruppo di persone alle quali credo di potermi attribuire anch'io l'appartenenza, che considerano l'embrione un qualche cosa, perché non c'è dubbio che l'embrione è, nel caso specifico, un embrione umano, ed è un progetto unico e ripetibile. Mi guardo bene dal chiamarlo persona, ovviamente. Naturalmente chi la pensa in maniera diametralmente opposta, con posizione del tutto rispettabile, pensa che questo sia un ammasso di cellule sul quale è possibile nei primi periodi dello sviluppo. Quindi c'è chi parla, nel caso specifico, degli esperimenti inglesi di 7 giorni, qualcuno parla fino a 14 giorni per altro verso, sono soggetti che possono essere manipolati a piacimento. Allora, naturalmente Questo richiama quel famoso concetto che qualcuno irrita, ma che io in questi giorni, in questo dibattito ho anche richiamato, il concetto di dignità, di dignità umana, e ho richiamato esattamente quello che Papa Francesco nell'udienza del 28 gennaio, quindi la scorsa settimana, ha detto ai membri del Comitato Nazionale per la Bioetica, letteralmente ha detto che le applicazioni biotecnologiche in campo medico non possono mai essere utilizzate in modo lesivo della dignità umana, e poi ha aggiunto nemmeno per guidati da scopi industriali, commerciali ed industriali. Ora, il problema certamente da un versante è un problema di tipo etico, sul quale, ripeto, ci sono due posizioni antitetiche, io credo entrambe rispettabili e giustificate, ma c'è poi un altro aspetto che è l'aspetto di tipo tecnico, e in particolare certo. L'aspetto di tipo tecnico deriva dal fatto che stiamo parlando di una tecnica che non è affatto precisa, anche se viene spesso reclamizzata come la chirurgia di precisione, il tagli e cuci. In effetti noi sappiamo da tutte le esperienze fatte sul mondo animale e anche fatte su embrioni umani mesi fa dai cinesi, che sicuramente nel momento in cui tu vai a fare un tentativo di taglio e di riparo di un gene può indurre una mutazione da un'altra parte, e credo che in questo riguardo non sia casuale, e vado citato quello che degli illustri scienziati che lavorano su questo argomento hanno scritto su Nature, che è un'autorevolissima rivista internazionale, non tanto tempo fa, era il 15 marzo del 2015, quando ha scritto Don't Edit the Human Germline, e hanno chiesto una moratoria nei confronti di queste manipolazioni sugli embrioni umani, sì, proprio per questo tipo di ragione. Qualora la tecnica fosse matura, allora lì potremmo forse addentrarci, potremmo provarci. Allora, io ricordo che la vituperata legge 40 aveva un articolo, non so a questo punto se sia ancora presente perché l'hanno così manomessa che non so cosa sia rimasta, sì, ma diceva chiaramente che l'embrione umano poteva essere manipolato solo per finalità terapeutiche, e quando è stata scritta moltissimi anni fa, ormai più di 10 anni fa, chiaramente era veramente del tutto utopistico, nessuno poteva immaginare che si sarebbe potuto un giorno inventare una tecnica che forse avrebbe raggiunto questo tipo di scopo. Ora, dal punto di vista pratico però è più un problema di lana caprina, anche perché spesso questo tipo di tecnica, questo tipo di sperimentazione sugli embrioni umani viene un po' reclamizzata come una prospettiva per garantire un domani un soggetto che sia perfetto, che sia esente da malattia e quant'altro. Ora, purtroppo, questa è esattamente un'utopia, perché io posso andare a tirare via il gene della talassemia, molti stanno lavorando per curare specifici geni malattia, ma il concetto di garantire che l'embrione nasce bello come uno vorrebbe è veramente del tutto utopistico, per una ragione molto semplice, che noi non siamo solo il risultato di errori in singoli geni che abbiamo. E voglio ricordare una cosa che spesso dimentichiamo: in ogni concepimento umano una coppia di genitori normali trasmette in media 70 nuove mutazioni ai propri figli, e molte di queste mutazioni sono mutazioni che possono dare causa di malattia. Il problema non è solo legato a queste mutazioni, cioè difetti strutturali, ma legato anche al fatto che certi geni vengono regolati in più o in meno, cioè vengono accesi o spenti da quel fenomeno che si chiama l'epigenesi, che è fortemente controllato da fattori ambientali che non sono legati esattamente al nostro genoma. Quindi ecco, una cautela in questo senso credo che vada posta. No, capisco insomma il vedere oltre, però diciamo che la ricerca, ad esempio questa britannica, sembrerebbe con lo scopo di capire perché avvengono questi aborti, insomma, così frequenti, per cui gli embrioni non si sviluppano su 100 embrioni. Su questo io vorrei dire qualcosa di molto chiaro, ormai abbiamo dati sufficienti che ci dicono che almeno più del 50% degli embrioni, di questi aborti precoci, che non sono aborti precoci, perché qui sono esperimenti in vitro, quindi l'embrione non viene messo nell'utero della madre, non viene spento. E un embrione che non cresce in vitro, in provetta, e perché non cresce? La stragrande maggioranza di questi morti precocissimi sono patologie genomiche, cioè vuol dire che hai dei cromosomi in più o gruppi di cromosomi in più o gruppi di cromosomi in meno, che non consentono neanche lo sviluppo per poche ore. Non mi aspetto, se non poi una briciola, ma non so quali piccola di casi, che ci sia la mutazione singolo gene che va a vedere questa tecnica. Quindi io ho il sospetto che questi tipi di tecniche vengono fatti per finalità diverse, non per quello che è esattamente stato scritto. Sappiamo molto bene che queste morti precoci in vitro, in poche ore dopo la formazione dello zigoto, e quindi nelle prime divisioni cellulari, sono dovuti a sbilanciamenti genomici, cioè grosse patologie del genoma, non mutazioni singoli geni. Okay. Insomma, lei sostanzialmente dice che c'è una interpretazione molto semplicistica invece di un fenomeno che è decisamente più ampio, e quindi non è facendo questo tipo di esperimenti che si riuscirà a gestire questa complessità. Sì, e poi io sono soprattutto, insisto, non dico che la ricerca faccia male, anzi, da ricercatore sei uno scemo a dire una roba di questo tipo. Dico che quando tu hai una tecnica che ancora non ha raggiunto il livello di precisione, mm-hmm, puoi utilizzarla su altri modelli che non andare a toccare quell'argomento eticamente sensibile che è l'embrione umano. E in alcuni laboratori italiani, cito per tutti il gruppo di Naldini del San Raffaele, sì, di Milano, stanno lavorando su questa tecnica, una tecnica preziosissima. È stato chiarissimo. Okay. Grazie della piccola. Grazie davvero e buon lavoro, professore. Grazie a voi. Ultimo passaggio con qualche considerazione importante di tipo bioetico che abbiamo, Chiara. Doverosa, direi. Demetrio Neri è qui con noi questa sera. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Buonasera, Neri. Lei è ordinario di bioetica all'Università di Messina e poi fa parte del Comitato Nazionale di Bioetica. È doveroso chiedere anche a lei, insomma, il suo parere. Durante la trasmissione abbiamo descritto sia la parte, diciamo, più scientifica e tecnica di quella che è stata la vicenda che di cui si è parlato questa settimana, abbiamo sentito il professor Dalla Piccola e la sua opinione di ricercatore e direttore dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, e adesso chiediamo a lei di darci un contributo dal punto di vista appunto dell'etica. Sul dibattito bioetico, come sta andando, cosa ne pensa? Bisogna distinguere tra il piano della ricerca di base, quella che è diretta ad affinare queste tecnologie, e poi il piano dell'applicazione clinica. Sì. Su questo piano, quello dell'applicazione clinica, io non ho trovato in tutto il dibattito precedente, almeno dagli anni 90 in poi, una sola posizione che si schieri per ragioni di principio alla eventuale modificazione del genoma ereditario, cioè all'intervento sull'embrione precoce equivale alla modificazione del genoma ereditario. Non ho trovato una singola posizione contraria, e appunto cito spesso un documento della Congregazione per la dottrina della fede e la dignità di queste persone, dove appunto l'opposizione viene basata su ragioni di fatto. Il documento dice spesso: allo stato attuale delle ricerche questa è una tecnica inammissibile in ambito umano. Allo stato attuale delle ricerche. Allora, la prima parte della domanda riguarda appunto lo stadio della ricerca. Noi oggi abbiamo a disposizione questa nuova tecnica che promette di poter fare quello che è stato sempre il sogno di tutti i genetisti, fin da quando è cominciata la terapia genica, quella cioè di riuscire a intervenire in modo preciso, mirato e oggi senza effetti collaterali dannosi sul genoma a qualsiasi livello, quindi anche il genoma degli embrioni, il genoma ereditario. Un esempio brevissimo: l'anemia falciforme è causata dal cambiamento di una singola lettera in un che cambia uno degli amminoacidi, sono circa 1080, che compongono il gene per l'emoglobina. Una singola lettera. La terapia genica tradizionale era costretta a cambiare tutto il gene. Con questa terapia noi potremmo cambiare solo quella singola lettera in situ, cioè nella sua propria collocazione cromosomica e con le parti regolatorie. Sì, sembrerebbe che questa tecnica sia molto precisa. L'obiettivo è quello di avere una maggior precisione. Non c'è dubbio. Ora resta il problema che prima o poi un qualche passaggio, dopo la sperimentazione che è già avvenuta in vitro, dopo la sperimentazione su modelli animali, ci sarà la necessità di un passaggio di sperimentazione su embrioni umani. C'è stato ad aprile di quest'anno, cioè giusto dell'anno passato, scusate, l'esperimento inglese che ha mostrato quanto la tecnica allora fosse ancora imprecisa ed imperfetta. Sì. Un passaggio in ambito umano sarà assolutamente necessario per poter validare definitivamente questa tecnica. Sì. E qui certamente ci si può dividere. E chi sostiene che l'embrione persona, qualunque embrione persona fin dal momento del concepimento, non accetterà questo passaggio e non dovrebbe però accettare poi gli eventuali risultati che dall'effettuazione di questo passaggio in uno dei paesi come l'Inghilterra e l'Arte, è proprio questo il punto. Se loro ottengono dei risultati, poi noi in Italia possiamo in qualche modo utilizzarli? Beh, se secondo la legge 40, sì, c'è un articolo specifico e si precisa anche poi nel seguito dell'articolo che cosa si vuol dire. La modifica del genoma ereditario di quell'embrione, che toglie da quell'embrione, corregge il gene per quella malattia. Quindi non nascerà il bambino perfetto, come sono ogni tanto l'espressione. Sì, diciamo di questo l'abbiamo già. Che non ha quella specifica malattia, poi ne avrà mille altre. Ma questo è normale, sì. Ecco, questa è la promessa che queste tecnologie ci fanno. Insomma, in sintesi, da una parte c'è una contraddizione nel dibattito, perché si è accettata da tutti l'intervento terapeutico, e però qui certo invece sarebbe anche un intervento su degli embrioni usati proprio come cavie, e però poi l'altra contraddizione è che se si hanno risultati positivi non li utilizzeremo tutti, insomma saremmo coerenti se dicessimo il lavoro sporco lo facciamo fare, ecco, fuori, non accettiamo, questa era un po' la contraddizione. Questa è anche la situazione che c'è per esempio in Germania, dove già dal 1990 una legge sull'embriologia addirittura ha dichiarato reato penale la sperimentazione sugli embrioni, ma anche lì si consente l'intervento quando è terapeutico e mirato. Ecco. E lì c'è stato però un vasto dibattito che aveva proprio come titolo questo: è morale utilizzare i risultati di ricerche compiute altrove che invece il nostro paese considera immorale? Noi non ne abbiamo discusso di queste cose, e sarebbe ora di discuterne proprio per essere pronti eventualmente o accettare o a rifiutare queste nuove tecnologie. Dobbiamo arrivare a questo è tipo il vero di dibattito. Punto, va bene. Grazie Neri, buon lavoro. Grazie a voi. Come vedete la faccenda è molto intricata, mi sembra che siamo riusciti Speriamo di aver dato un po' di luce in questa nebbia. E poi vediamo. Però cosa insomma succede. Il dibattito, come ci ha appena detto Neri, è ancora da affrontare. Buona Va bene. Settimana. A tutti e a tutte, ciao!